La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua come ogni sabato, un saluto da Franco D'Assisi, il cinema irrompe su Radio 24 a quest'ora per raccontarvi quel che c'è in sala soprattutto, ma anche quello che c'è da vedere sul piccolo schermo per recuperare qualche film imperdibile. È una settimana dominata dai titoli di cassetta, da quelli che vengono definiti blockbuster, soprattutto per quanto riguarda il cinema americano, perché arrivano nelle nostre sale tanto Wonder Woman quanto Baywatch. Sono due titoli che a varia ragione hanno così un appeal più alto, anche se poi, come vedremo anche dalle nostre recensioni, magari non sono due film perfetti, però insomma sicuramente sono le due proposte che hanno il maggiore impatto sul pubblico, anche se il box office continua a essere dominato giorno per giorno dai Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar, che si sta avvicinando ai 7 milioni di incasso globale, va avanti al ritmo di un mezzo milione di euro al giorno nei giorni infrasettimanali e poi nel weekend, dà sicuramente il meglio di sé. È un film che abbiamo anche promosso qui alla Rosa Purpurea in termini qualitativi, sempre restando nel relativo del grande film di cassetta. Non è solo quello, ovviamente, ci sono anche alcune proposte molto interessanti per quanto riguarda il cinema d'autore, quindi pian pianino cercheremo di parlare di tutto. Parleremo anche di quando il cinema si sposa con la musica, soprattutto per quanto riguarda la proposta del cinema muto con il Ravenna Festival, prima della fine di questa nostra trasmissione. Però noi siamo debitori, prima di cominciare a entrare nel vivo, siamo debitori di quel che è successo a Cannes. Ci siamo lasciati la settimana scorsa con la trasmissione andata in onda poche ore prima dell'assegnazione del Palmarès e con grande incertezza nella puntata andata in onda da Cannes. Ebbene, come sapete sicuramente ormai, ha vinto The Square, la palma d'oro del 70° Festival di Cannes, dello svedese Ruben Östlund, che aveva già firmato Forza Maggiore qualche stagione fa, un film che era uscito anche in Italia, mentre Robin Campillo con 120 battiti al minuto ha vinto il Grand Prix. C'è stato anche un premio per il cinema italiano con Jasmine Trinca, protagonista di Fortunata, nella sezione Uncertain Regard, premiata come miglior attrice, e devo dire che la cosa ha avuto subito un impatto anche sul box office, perché il film di Sergio Castellitto ha ricominciato a scalare posizioni. La notizia è che tutti e due i film che hanno vinto i due premi principali praticamente di Cannes, cioè The Square, Palma d'Oro, e 120 battiti al minuto Grand Prix, saranno distribuiti in Italia, sono stati acquisiti e sono nel catalogo di Teodora, piccola e coraggiosa casa di distribuzione. Non ci sono ancora delle date in cui usciranno in Italia, probabilmente nella prossima stagione, però quel che è certo è che questi due film potranno essere visti anche dal pubblico italiano. Pubblico italiano che per il momento può cominciare a ritornare un po' a sognare atmosfere che erano tipiche degli anni 70-80 con l'edizione per il grande schermo di Wonder Woman. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Diana, combattere non fa di te un'eroina. E se prometto di stare attenta? Solo uno scudo, allora. Diana. Senza bordi affilati. Sii prudente nel mondo degli uomini, Diana. Essi non ti meritano. Già mi hai raccontato questa storia. Diana ovviamente nel mondo degli uomini ci va comunque, nonostante l'opinione contraria della madre, la regina delle Amazzoni, Ippolita. Da guerriera è stata cresciuta nell'isola di Timiscira, celata alla vista dei mortali, e quando un uomo arriva a raccontare della tragica guerra in corso, la prima guerra mondiale, lei va, perché le è stato insegnato che è l'unica a poter uccidere Ares e a fermare il conflitto. Chiunque tu sia, sei in pericolo più di quanto pensi. Non posso stare a guardare chi cancella vite innocenti. Sta attenta, Diana. Chi è questa donna? È la mia segretaria, signore. È un'ottima segretaria. Che Diana diventerà Wonder Woman si capisce da subito, anche se nessuno dice mai il nome dell'eroina. Come accadrà è la trama fondamentale del film. Dagli ideali modellati un po' a piacere sulla mitologia greca, si finisce fra le trincee del fronte occidentale, che nulla hanno che si possa definire ideale, come l'intera guerra in cui le fa da guida il pilota americano Steve Trevor. Il mio nome è Capitano Steve Trevor, pilota Forze di Spedizione Americane, matricola 141921, non sono autorizzato a dire. segnato all'intelligence britannica. Che diavolo è questo coso? Il lazzo di Estia ti obbliga a rivelare la verità. Come l'eroe diventi tale, è parte fondante di ogni primo film da fumetto, che sia Marvel o DC, come in questo caso. Per Diana sarà alla fine la forza dell'amore a vincere la guerra. In mezzo c'è però un gran pastiche, una guerra raccontata più fumettisticamente del fumetto e qualche battuta a doppio senso. Diana, interpretata dall'israeliana Gal Gadot, non ha mai visto un uomo e come primo esemplare le capita Chris Pine, che le mostra un oggetto che lei non possiede. È un orologio, ma c'è una prateria di doppi sensi e la porta a fare acquisti in un grande magazzino. La donna guerriera si deve confondere fra le altre, non può girare per Londra con spadone e costumino. Sui campi di battaglia però sì, e lo farà. Anche qui con un tentativo di aggiungere significato alla presenza femminile in prima linea, è tempo di suffragette e Wonder Woman è modello femminista fin dall'origine. Cosa rimane? Un gran mescolarsi di piani e storie che se avete 8 anni possono piacere, ma oltre vi viene qualche dubbio, immagini fin troppo fumettistiche e della futura eroina ancora poco. La sentenza vera passa per il prossimo film. Wonder Woman, Chiara Pizzimenti, la nostra Wonder Woman, ha visto il film nelle sale cinematografiche. A questo punto viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade di questo ponte, poi torniamo insieme e entriamo dentro uno dei film di proposta di qualità, di proposta d'autore, si intitola Quello che so di lei, interpretato da Catherine Deneuve, fra poco. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea prosegue come promesso con una proposta d'autore, ma anche una grande prova d'attrici al plurale, perché lo sono in questo film Catherine Froh e Catherine Deneuve, le due Catherine di Quello che so di lei, il titolo italiano che non riprende per niente il titolo originale, che era Sage-Femme, che vuol dire semplicemente la levatrice. Certo, gioca anche con l'onomatopea di saggio, no? di donna saggia, donna sapiente, ma è proprio il mestiere della levatrice, dell'ostetrica, che è il mestiere che fa la protagonista del film, Claire, appunto Catherine Froh, una donna non più giovanissima, legata a un modo di far nascere i bambini e a una modalità di clinica classica, così, e che sebbene abbia delle richieste da una grande clinica che lei sostiene essere sostanzialmente una fabbrica delle nascite, migliaia di bambini all'anno, eccetera, non cede a queste lusinghe perché si sente ancora vicina al mestiere fatto come si faceva una volta. E questo un po' per inquadrare il personaggio e anche il titolo del film. Però arriva nella sua vita una donna più anziana di lei, appunto interpretata da Catherine Deneuve, è Beatrice, ed è quella che è stata l'amante di suo padre e che non vede da 30 anni. Sei come tuo padre, tu. Mai un goccio d'alcol. Votato allo sport. Ma con me sei rifatto del tempo perduto. Dicevamo? Ah sì, ostetrica, deve essere bello veder nascere tutti quei bambini. Sì, molto. Tu hai figli? Ho un figlio, Simon. E lei? Mi davi del tuo all'epoca. Lei ha dei figli? Figli io? No, mai. Non sarei stata capace di occuparmi dei figli. Devo dire che andando avanti con gli anni un figlio può tornare utile. Insomma, dopo 30 anni arriva questa presenza e la vita di Claire cambia perché da quel momento in poi dovrà fare i conti con questa donna che all'inizio detesta in maniera anche abbastanza aperta, è totalmente insofferente, ma che pian piano la farà entrare in un mondo di segreti che riguardano anche suo padre, di cui lei non era al corrente, facendo nascere una, come dire, un'amicizia fra queste due donne. È un film che ti porta dolcemente dolcemente dentro un clima di rapporti umani, ma dove io ho trovato una Catherine Deneuve veramente in forma smagliante nei panni di questa donna un po' sconclusionata, questa amante che vive anche un po' di piccoli espedienti, ma che ha una grande umanità da regalare. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ti è piaciuto Quel che so di lei? Assolutamente sì, è un film che in qualche modo incarna in un certo periodo di tempo quella che è la parabola tra cicala e formica. La levatrice è la formica che per anni ha sempre fatto ciò che era giusto e che si ritrova probabilmente con un pugno di mosca in mano, perché chiude il reparto maternità, si trova disorientata dal fatto che il suo essere stata onesta, il suo essere stata retta non è servito a nulla, o probabilmente comunque l'aver fatto nascere tante persone non le ha assicurato, tra virgolette, la sopravvivenza. E dall'altra invece la cicala Deneuve, che ha ostinatamente sperperato la propria vita, anche con orgoglio, non ha voluto avere, l'altra ha fatto nascere migliaia di figli e la Deneuve invece non ne ha avuto uno perché era troppo concentrata su se stessa. E in fondo entrambe sono estremamente orgogliose di quello che sono ancora adesso, anche adesso che probabilmente la vita ha detto loro che hanno fallito, che il loro approccio non era giusto. Ed è questa forse la cosa più bella, è una commedia umana e sentimentale, molto malinconica ma anche divertente a suo modo e davvero di una sensibilità rara, ed è sicuramente un film da promuovere perché ha veramente una capacità di entrare dentro alcune sfaccettature imprevedibili e impreviste. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista con il regista Martin Provost, realizzata dalla nostra Chiara Pizzimenti. Je suis parti d'une histoire qui m'est arrivée parce que j'ai été sauvé par une sage-femme à ma naissance, j'ai failli mourir vraiment. Sono partito da una storia personale. Io stesso sono stato salvato da un'ostetrica. Alla nascita stavo per morire. Non si trovava il sangue e dopo una notte d'angoscia ci si è resi conto che l'ostetrica che mi aveva messo al mondo aveva il mio stesso gruppo. Ho saputo di questa storia solo 3 anni fa. L'ho cercata, ma gli archivi dell'ospedale della città in cui sono nato erano stati distrutti. Allora ho fatto un film per rendere omaggio a questa professione prima di tutto. E donc j'ai décidé de faire un film pour rendre hommage à cette profession avant tout. È partito scrivendo la sceneggiatura pensando agli attori che poi hanno interpretato il film. J'ai dans ma vie autour de moi des femmes comme ça incroyables. Ho sempre avuto nella vita attorno a me donne incredibili, molto particolari. Volevo raccontare una storia di favola sulla saggezza, ma anche sulla forza di vivere e la volontà di dedicare la vita agli altri. Dall'altra parte ho immaginato invece Beatrice, che è una donna totalmente libera, ma alla fine comprende i limiti di questa sua libertà. Ho scritto la sceneggiatura con in mente Catherine Froh, Catherine Deneuve e Olivier Gourmet. Sono stato fortunato. Mi hanno detto di sì tutti e tre. E les trois m'ont dit oui. È spettacolare e particolare il personaggio di Catherine Deneuve. C'est une femme qui a qui ne s'est jamais retournée, qui a vécu la vie qu'elle voulait vivre. È una donna che non si è mai voltata indietro, che ha vissuto la vita che voleva vivere. Una bella donna che ha avuto gli uomini che voleva, certamente ricchi. Una donna che ama il gioco, che ha passato le notti al casinò. Arriva però alla fine della corsa con la sua borsa di Chanel molto usata. Dorme in casa d'altri, va in bar non proprio ben frequentati per raccogliere un po' di soldi. Ha bisogno di aiuto perché ha problemi di salute. Va alla ricerca della figlia dell'uomo che ha amato, sperando di ritrovare lui. Si trova davanti a qualcuno che pensa che lei sia colei che le ha rovinato la vita. La relazione fra queste due donne è destinata alla pace finale, perché una possa avere una vita affettiva normale e l'altra possa per una volta fare un po' di bene. Pour une fois, faire un peu le bien. Martin Provost al microfono di Chiara Pizzimenti, Sage Femme, Quel che so di lei, sicuramente una delle proposte più interessanti di questa settimana. Adesso giochiamo un attimo insieme, perché è arrivato il momento del nostro film misterioso. Vi voglio già dare una piccola mano, diciamo così, subito. Siamo molto filologici questa settimana. Ecco, allora, quello che andate ad ascoltare è qualcosa che c'entra molto con questa settimana al cinema, ma non è al cinema. Quello che lei indossa è perfetto per l'estate, ma non lo prenda come una critica. L'inverno si sta avvicinando. Oh, sembra fatto per legna, cara. Voi sprecate un mucchio di stoffa per i vestiti. Oh. qualcuno che prova un abito evidentemente succinto alla vigilia dell'inverno e gli viene fatto notare che sta molto bene, ma insomma forse c'è un po' poca stoffa. Se avete già indovinato di cosa si tratta, la rosa purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo di questa serie e il vostro indirizzo. Più tardi un'altra traccia. Andiamo avanti con le proposte. Arriva dagli Stati Uniti una commedia indipendente che è abbastanza una, come dire, una sorta, non dico di contraddizione in termini, ma insomma di solito il cinema indipendente americano vola su altre coordinate, storie di grande umanità, magari cinema diverso. Invece qui il clima è quello della commedia, ma lo è in maniera appunto indipendente nei modi, diciamo così. Stiamo parlando di Tavolo numero 19 di Jeffrey Blitz. Nel cast Anna Kendrick, Lisa Kudrow, tanto per dare i nomi femminili più importanti, c'è sempre un tavolo ai matrimoni nei quali vengono, diciamo, messi gli ospiti che insomma tutto sommato non erano proprio forse i più graditi. Sì, li devi invitare, però poi magari se non vengono ti fanno un favore, invece vengono e allora finiscono al tavolo 19. Oggi non sarà uno schifo. Salve. Salve. Mio Dio. Sono Renzo. Ho raggiunto la pubertà e canto. Io sono Walter, che ha raggiunto la pubertà. Io sono la prima tata di Francie Minor. Da qui sentiamo il puzzo della toilette, no? Ecco quanto conosciamo gli sposi. Mi chiamo Louise. Sono stata piantata dal fratello di Francie, il testimone. Siamo ridicoli. Questo è un tavolo fantastico. È fantastico. No, non lo è. Sì, lo è. No, non lo è. Boris, è tanto tempo che Anna Kendrick cerca, come dire, di sfondare come volto protagonista. È un'attrice, abbiamo modo di vedere, che ha grandi doti, soprattutto magari da caratterista o comunque da personaggio secondario. Qui sicuramente ha addosso un po' più di responsabilità. Come se la cava? Il problema di Anna Kendrick, secondo me, è che è il personaggio marginale più protagonista che io abbia mai visto in quasi tutti i film che ha fatto, nel senso che ha una capacità di entrarti nell'immaginario e di divertirti e di creare empatia con te molto forte, e però il fatto di avere questa capacità di incarnare le outsider, che non è così facile perché magari gli outsider, i nerd maschi hanno anche più stereotipi a cui attecchire, lei invece per le donne in questo senso non c'è neanche l'aiuto tanto dell'abito, dell'archetipo, dello sfigato, come lo vorremmo chiamare, e lei invece riesce a incarnarlo lo stesso, pur per esempio rimanendo bella, pur rimanendo affascinante, e questa è una grande dote che in qualche modo però l'ha ingabbiata in una piccola prigione, perché è costretta sempre a fare questi personaggi, è costretta sempre ad arrivare a un passo dall'essere protagonista, dallo sfondare, come dicevi tu, senza poi però riuscirci, senza fare il salto di qualità. Tavolo 19 in fondo è proprio la fotografia di questo momento della carriera di Anna Kendrick. Sono d'accordissimo con te sul suo talento, trovo che sia straordinario, soprattutto a livello comico. Tavolo 19 è un po' come lei, un'ottima occasione né sprecata né crollata nelle mani del regista, perché sa essere divertente come film, sa riuscire a cogliere alcune parti anche della nostra vita, insomma chi non è stato nel Tavolo 19, perché magari sei il collega di uno che si sta sposando, sei l'unico che non lo conosce perché sei arrivato da poco ma ti invita lo stesso, oppure appunto sei un amico di vecchia data che non si vede da anni, però poi al matrimonio che fai? Non lo inviti e finisci in questo tavolo dove sostanzialmente ci sono tutti estranei, gli altri sono stati fatti in modo che ci potessero essere delle buone affinità o magari ci fossero delle comitive che si riunivano, e tu sei il tavolo degli scarti. Ed è anche ben caratterizzato, perché tutti i componenti di questo tavolo hanno delle particolarità e delle immagini che nel proseguire della storia, nell'evolversi della storia, riusciranno anche a creare delle dinamiche. Il problema è che Anna Kendrick occupa forse troppo nel nostro immaginario e il regista e lo sceneggiatore non sanno veramente come calibrare il tutto. A volte il film è troppo lento, la Kendrick però parla troppo veloce perché è la sua caratteristica, è quello che dovrebbe farti più ridere. Non sanno se essere abbastanza comici o più malinconici, non si prende una scelta fino alla fine del film, persino sul lieto fine o sul non lieto fine, E così arrivi alla fine del film che non hai ancora capito. Se hai visto un film grazioso che alla fine sei contento di aver visto e che ti ha fatto passare una buona serata, o che è più alto il rammarico di non aver visto un'ottima occasione colta molto molto meglio. Ed è proprio questa la carriera di Anna Kendrick, purtroppo. E il tavolo 19, che spesso, come diceva Boris, è quello con le persone un po' dispari fra di loro, ma a volte diventa anche il più divertente. Allora andiamo a dare la linea alla regia, perché fra poco torniamo insieme, ci aspetta l'altro titolo, guarda caso, di questa settimana, che arriva da una mitica serie TV, questa volta degli inizio degli anni 90, stiamo parlando di Baywatch. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, i gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. La rosa purpurea. Benvenuti in Baywatch. La nostra squadra è l'elite dell'elite. Siamo il cuore e l'anima di questa spiaggia. Ehi, sirenetta, sei qui per le prove? Non faccio selezioni, sono Matt Brody. Due medaglie d'oro. Matt Brody, sì. E continua a non fregarcene un capo. Il tuo posto in squadra devi guadagnarlo. Questo non è salvare le persone, questi sono frigoriferi. Questa è Baywatch, bimba. Questa è Baywatch, avete sentito la clip del film che riporta sul grande schermo le atmosfere di Emerald Bay in Florida, riporta sullo schermo quello che è stato il uno dei telefilm di maggiore successo dell'inizio degli anni 90, che consegnò all'immaginario soprattutto maschile il personaggio di Pamela Anderson e a quello femminile quello di David Hasselhoff, ma noi ricordiamo soprattutto Pamela Anderson per evidenti ragioni. Tra l'altro i due sono protagonisti di un cameo, proprio un cameo, quello della Anderson, qualcosina di più, sono una parte secondaria, ma una sorta di grande spirito che incarna che cos'è Baywatch da parte di Hasselhoff. Qui invece i protagonisti sono Dwayne Johnson, The Rock, con il suo fisico monumentale, e Zac Efron, che sembra suo fratello culturista, davvero con tanto di tartaruga ben pronunciata. Una squadra di aitanti bagnini, di bellissime bagnine con costumi inguinali, devono tutelare i bagnanti, ma anche loro la prendono un pochino a cuore questa missione, tutelare la sicurezza di questa splendida baia. E la cattiva di turno, perché è una cattiva, ha i tacchi a spillo misura 15, scende dal SUV sulla spiaggia con tanto di rialzo dei suoi maggiordomi, ha il volto bellissimo di Priyanka Chopra, una delle più grandi star del cinema indiano. C'è una sorta di eredità di quello che erano gli slow-mo, le slow motion, i rallentatori con cui correva Pamela Anderson, con luci soffuse che la introducevano come in una sorta di paradiso terrestre. C'è l'eredità di quel Baywatch, ma c'è anche la voglia di prenderlo in giro e di prendersi in giro e di ragionare con il pubblico di oggi in termini anche parodistici, prendendo la lezione di quei film fra il demenziale e il parodistico, appunto, penso a Scary Movie per l'horror per esempio, che è quello di prendere in giro un po' se stessi e tutto. Poi il film è pieno di grossolanità, ecco, chiamiamole così in italiano, però insomma, Boris, io l'ho trovato una sorta di secchiata d'acqua fresca quando sei sulla sdraio a 50 gradi. Sì, guarda, quella del gavettone credo sia la metafora perfetta per Baywatch, una di quelle cose che all'inizio ti ghiaccia, ti sconvolge e poi alla fine però ti diverte, magari il gavettone lo tiri anche tu, goliardia pura. Noi facciamo parte di una generazione che insomma Baywatch l'ha vissuto, e Baywatch era una brutta serie televisiva, straordinariamente brutta, imbarazzantemente brutta, insomma faceva sembrare i Chips Quarto Potere, per intenderci, e quindi a livello visivo non ci potevamo aspettare chissà che cosa. Qual è la cosa secondo me potentissima di questo Baywatch cinematografico? è che il prodotto televisivo era chiaramente semplicemente fatto per un pubblico di Onan il Barbaro, che volevano vedere questi costumi interi rossi su Pamela Anderson e le sue colleghe, chi non aveva conosciuto David Hasselhoff con Supercar e voleva goderselo appunto in boxer rossi. Però era una serie che si prendeva terribilmente sul serio creava un effetto involontariamente umoristico davvero abbastanza ridicolo, abbastanza grottesco. E qui col Baywatch cinematografico si rendono conto che quello però era invece il talento maggiore di Baywatch, che oltre al fatto di riempirti gli occhi con forme piuttosto generose, anche qui non si fanno pregare, e tra l'altro devo dire in maniera molto rivoluzionaria, soddisfano molto di più l'immaginario femminile che quello maschile. È un film molto bello per le donne, forse meno per gli uomini. Riesce però a portare il tutto al livello della parodia, a livello della parodia dichiarata, quindi non più involontariamente umoristico ma incredibilmente umoristico. In questo il personaggio di Dwayne Johnson, The Rock, è sostanzialmente lo stesso tipo, tra virgolette, di grillo parlante inconsapevole che troviamo anche in Fast and Furious nel suo personaggio, cioè quello che svela tutta la follia e tutto il grottesco eccesso che c'è vicino a Baywatch. Quindi mi chiedete se cinematograficamente ha un valore? Sicuramente no, visivamente, a livello di ritmi, non funziona. Però ragazzi, è la parodia di Baywatch che abbiamo sempre sognato, o almeno io ho sempre sognato. Mi sono anche divertito. Poi se pretendevamo che arrivasse Orson Welles, dove non c'era stato neanche Ed Wood, il problema è tutto vostro. Perché siamo all'obitorio? Per trovare prove valide. Oh no, c'è puzza di yogurt. Sentite qua, frattura delle vertebre cervicali 5, 6 e 7. È un omicidio e c'è qualcuno che lo copre. Oh merda. Vieni, dottor Stranamore, aiutami. Oh, cavolo. Controlla se ha punture sul perineo. Devo controllare il perineo? Non fare il bambino, alzagli lo scroto. Io non gli toccherò lo scroto. Tiragli sulle palle e guarda se c'è qualcosa di strano. Io non... Cazzo. Oh mio Dio. È un perineo. Neanche hai guardato. Oh mio Dio. E allora, questo era Baywatch. Adesso concentriamoci sulla seconda traccia del nostro film barra serie misteriosa di oggi. Ho chiamato questa Isola del Paradiso per una ragione eccellente. Non ci sono uomini, perciò non c'è pericolo di guerre per la loro avidità, disordine. Sono passate migliaia di anni. Forse gli uomini ora sono differenti. Forse anche loro pensano alla pace come noi donne. Vi abbiamo detto che siamo stati filologici rispetto a questa settimana, vi abbiamo detto che si tratta di una donna poco vestita, diciamo così. Avete indovinato di che serie TV si tratta? La Rosa Purpurea, @radio24.it, è l'indirizzo a cui scrivere il titolo e il vostro indirizzo. Sveleremo la risposta prima della fine della trasmissione di oggi. Vincitori, la prossima settimana. L'ultima proposta dalle uscite di questa settimana è una proposta italiana, molto interessante, firmata da un nome, anzi direi da un cognome molto molto ingombrante, perché parliamo di Andrea De Sica, 35 anni, figlio di Manuel De Sica, quindi nipote del grande Vittorio, che esordisce alla regia con questo film che si intitola I figli della notte. Non avevi paura a stare in giro da solo? È proprio quello il bello. Non sai mai cosa ti capiterà. Io non ne sarei capace. Proviamo. Che dici? Guarda, li vedi? Laggiù. È la seconda volta che li becco. E dove vanno? Non lo so. Ma voglio scoprirlo. E allora, avete sentito un dialogo sottovoce, sussurrato, mentre due ragazzi che frequentano un collegio molto, molto severo e austero stanno guardando dalla finestra, appunto, anzi dal visore notturno, due loro compagni che scappano nella notte verso il bosco senza capire bene dove andranno. Questo è un po' il senso del film, che appunto racconta l'amicizia fra due ragazzi chiusi, ed è proprio la parola giusta da usare, dentro questo collegio, dalle sembianze asburgiche, nel quale vige una disciplina rigorosa al limite del militaresco, dal quale non si scappa, e nel quale i rampolli della buona famiglia imparano a stare al mondo. Questa è un po' la missione di questo posto: soffrire per imparare a stare al mondo, per imparare a comandare, obbedire per imparare a comandare, no? Siete la classe dirigente del futuro, gli dice il preside, non dimenticatevelo. Però in questi posti si consumano situazioni poco simpatiche, e la fuga notturna verso un locale che invece è il contrario, l'opposto, la totale perdizione, bellissime donne alla lap dance, prostitute, eccetera, sembra essere la valvola di sfogo. In questo clima nasce la storia del protagonista Giulio con questo suo amico Edo, ma anche con una ragazza incontrata in questa specie di bordello nel quale vanno a stare durante la notte. Finché tutto non viene scoperto dalle autorità, e chiaramente il film prende tutta un'altra piega. Boris, Andrea De Sica promosso per quanto mi riguarda, soprattutto per la mano di regia così poco italiana, mi sembra uno che guarda molto in alto, guarda Kubrick, tanto per dirne una, guarda a certi momenti di un cinema con la C maiuscola, chiaramente realizzandolo con i mezzi che ci sono a disposizione, ma facendo un cinema che è storia umana ma al tempo stesso noir, un cinema di genere che sfiora anche venature horror in certi momenti, soprattutto per le atmosfere. Sono pienamente d'accordo con te, ed è affascinante come una generazione come quella di Andrea De Sica, che ha avuto la fortuna di nascere e crescere in una famiglia di cinema, possa avere in sé sia la sensibilità per gli adolescenti, per i ragazzi che aveva il nonno, sia però nel proprio immaginario la potenza delle migliori serie TV, e allo stesso tempo anche Kubrick, perché poi è inutile girarci attorno, ma questo collegio in cui insegna un grande Fabrizio Longione, io non mi spiegherò mai perché continuiamo a cederlo all'estero un attore così straordinario, è un Overlook Hotel 2.0 evidentemente. È interessantissimo perché tra l'altro c'è anche un po' la lezione di Mainetti, cioè il prendere il genere e farlo diventare anche film politico. Però non voglio appesantire il film rispetto ai suoi contenuti, perché invece il film è proprio un grande film, a mio parere, di genere, un grande noir con venature horror, con una capacità pop di guardare la propria storia straordinaria. Penso all'uso delle musiche. Andrea De Sica, che ha perso il papà da poco, che doveva fare la colonna sonora di questo film, alla fine la colonna sonora se l'è fatta da solo, si vede, perché è veramente completamente aderente al film nella maniera migliore possibile, e ha una capacità per esempio di far entrare nel suo film pezzi che mai immagineresti, come Vivere di Tito Schipa, che secondo me è al centro forse della scena più bella, della scena più inventiva e più creativa, e fa diventare Ti sento di Mattia Bazzarra una sorta di main team che chiaramente va continuamente in contrasto, in nobile contrasto con il resto del film. Altro grande merito di Andrea De Sica è il cast non ha grandissimi nomi, soprattutto tra i protagonisti sono tutti ragazzi che non abbiamo visto spesso, hanno probabilmente soprattutto all'inizio qualche piccola incertezza, sono un po' acerbi, però hanno visi straordinari, e a mio parere poi costruendosi come classe, tra virgolette, a un certo punto riescono a trovare anche un'omogeneità e un carisma che non ti aspettavi. A mio parere I figli della notte è un ottimo film, e di sicuro con questo esordio abbiamo trovato un grande regista che, se non si perderà, ci darà tante soddisfazioni. Ma è veramente una bella sorpresa, e in questo senso faccio una piccola stoccata ai nostri colleghi: non mi fiderei pienamente di quello che è stato scritto quando è passato per Torino, perché secondo me c'è stato un filo di pregiudizio. Adesso secondo me molti, rivedendolo, lo apprezzeranno di più. E allora, promosso anche I figli della notte di Andrea De Sica, grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, viabilità, fra poco torniamo insieme, parliamo di cinema e di musica e del rapporto fra queste due arti all'interno del Ravenna Festival, fra poco, e poi la soluzione del game di oggi. Domenica, ore 14:30, Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. La rosa purpurea. Eccoci qua, la rosa purpurea è giunta alla sua quarta parte. Fra poco tutto il cinema da vedere in casa, la soluzione del game della settimana scorsa con i vincitori e soprattutto la soluzione del game di questa settimana per scoprire qual era questa serie misteriosa con la quale abbiamo giocato. Prima però Ravenna Festival, un classico, diciamo così, dell'estate italiana, culturale, grande festival di musica classica, teatro, performance. Ritrova anzi un vecchio amore come il cinema. Lo fa con una sezione dedicata alla diciamo commistione fra le musiche e i film nell'epoca del muto. Quindi film muti, grandi capolavori, adesso sentiremo anche i titoli, con l'esecuzione della colonna sonora dal vivo, a volte addirittura di una colonna sonora originale appositamente scritta per questa edizione del festival. Il gabinetto del dottor Caligari del 1919, con una musica di tipo elettronico, la Giovanna d'Arco, la passione di Giovanna d'Arco di Dreyer del 28, e poi La febbre dell'oro di Charlie Chaplin. Questi tre capolavori scelti dalla Ravenna Festival. È in collegamento con noi il direttore del festival, il direttore artistico Franco Masotti, che saluto. Ciao Franco. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' perché e come avrete voluto ritrovare il cinema lì a Ravenna. L'amore per il cinema e per il rapporto musica e cinema è praticamente data quasi dagli inizi del festival, nei lontani e remoti anni 90, e quindi l'abbiamo sempre perseguito con una serie anche di rassegne importanti. A Ravenna c'è stato Teo Angelopoulos, abbiamo fatto rassegne su con Parajano, insomma un sacco di cose, perché la possibilità di avere le colonne sonore, come dicevi, hai detto giustamente tu, spesso originali o se non addirittura con da noi commissionate dal vivo assieme alla produzione del film, ci è una cosa che ci intriga moltissimo e piace anche molto al pubblico. Quest'anno abbiamo richiamato un gruppo, l'abbiamo chiamati Fab Four del Laptop, l'Edison Studio, che sono quattro compositori molto agguerriti di area romana, con cui avevamo già fatto un bellissimo progetto su Hitchcock, con Blackmail, Ricatto, l'Inferno di Dante del 1911, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, e questo gabinetto del dottor Caligari sarà probabilmente una sorta di must, già è forse considerato il primo film cult della storia, e con questa colonna sonora live, che dove l'espressionismo diventa elettronico, e vedremo cosa succede insospettabilmente. Ecco Franco, sicuramente cinema, ma il cuore del festival come sempre pulsa fra teatro, musica, performance, e quest'anno con un particolare spettacolo che si ripete per 34 giorni, tanti quanti sono i canti dell'inferno, ed è uno spettacolo itinerante per le vie di Ravenna proprio sull'inferno. È un lavoro peripatetico, itinerante, perché non poteva che partire dal luogo dove sono religiosamente conservate da secoli le spoglie mortali del divin poeta, cioè la tomba di Dante, e da lì quasi in qualcosa che assomiglia a un rito, tra una processione, però può assomigliare anche a una manifestazione rivoluzionaria sessantottina, ci sono diversi livelli di lettura, e ci condurrà fino al Teatro Rasi, che in realtà era un convento delle Clarisse che Dante stesso probabilmente visitò, e qui si entra veramente in una bolgia infernale dove lo spettatore diventa Dante e accompagnato da Virgilio, e poi passerà per tutte le bolge infernali in una dimensione estremamente avvolgente, immersiva, però per tutti, perché adesso è già partito il 20 e pochi alcuni giorni fa, per dire vengono anche le famiglie, anche se è l'inferno. Franco Masotti, grazie. Ravenna Festival ha come sempre una durata monstra, quindi potete trovare gli spettacoli fino al 22 luglio, tutti i giorni c'è qualcosa, datevi a vedere il sito perché davvero è un'occasione da non perdere, anche per visitare una delle città più belle d'Italia. Grazie a Franco Masotti, ci risentiamo. Grazie a voi, ciao. E allora allora, siamo arrivati adesso alla zona del cinema da vedere o rivedere in casa, cominciando con il nostro gioco di 7 giorni fa. Mi hanno richiamata. Cosa? Davvero? Per cosa? Per una serie TV. Quella di cui ti dicevo prima, quella... Pensieri pericolosi barra Dio sì. Sì. Tanti auguri. Sono troppo contenta e forse ne ho parlato un po' troppo male prima. E allora si trattava di La La Land, il film che ha contrassegnato a fuoco, diciamo così, tutta la prima parte di questa stagione cinematografica, il mio film del cuore di quest'anno. Vincitori: Elena Sala di Olginate, provincia di Lecco, Paola Signorelli di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo. Due donne, non a caso, perché La La Land è un film che ha scolpito, diciamo così, l'universo femminile. Riceveranno il Blu-ray di La La Land, appena uscito nelle videoteche e nei negozi specializzati, del quale ci facciamo raccontare tutto dagli amici di Fil TV. C'è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, sei il primo Oscar, ma non quello per il miglior film, che è stato soffiato dalla parabola su diformazione queer e black di Moonlight, e 7 Golden Globe. Sono solo una parte dei tantissimi premi portati a casa da Damien Chazelle e da questo musical con Ryan Gosling ed Emma Stone, che come dicevi ha contrassegnato la scorsa stagione. È un film che guarda al cinema francese, al musical francese di uno degli autori che sta più a cuore ai veri cinefili, ovvero Jacques Demy. È un film che si muove a ritmo di jazz per raccontare la storia di un amore, dei suoi sacrifici e dei suoi sogni di gloria in una Los Angeles dove non è detto che in questa fabbrica dei sogni la riuscita nello showbiz concordi con la riuscita di un amore. Il Blu-ray è veramente ben fatto, come spesso accade con prodotti di tale fattura, e è ricchissimo di contenuti extra, tra cui Dietro le quinte, che sono veramente sfiziosi, come Gosling, Ryan Gosling a lezione di piano, oppure il making of della prima scena incredibile del film, chiunque l'abbia vista insomma se la ricorderà, e tantissimi anche altri approfondimenti. E allora, questo è il Blu-ray di La La Land, il nostro game della scorsa settimana. Segnalazioni dai palinsesti TV con Dino Risi e uno dei suoi film più da riscoprire, Il Profeta, lunedì 5 giugno su Iris alle 17:20. Sì, diciamo che in quel periodo, negli anni 60, fine anni 60, tra matrimoni e divorzi, la commedia italiana trattò anche dei temi sociali, come anche il tema della contestazione. E Il Profeta di Risi con Vittorio Gassman, uno dei tanti film di Risi con Gassman, rimane forse il miglior film su questa commedia che si confronta con la contestazione di quegli anni. La storia di un impiegato medio che si è abbandonato, stufato della società dei consumi e decide di fare l'eremita. Viene poi individuato da una troupe televisiva, deve ritornare a Roma per una serie di motivi legali, e una vicenda dopo l'altra viene reintegrato assolutamente nella società dei consumi. Risi non amava moltissimo questo film, ma devo dire che certe sue sciatterie di stile danno tutta l'opera una sorta di urgenza polemica molto forte, molto vissuta. Un film assolutamente da riscoprire, come dicevi. E invece martedì 6 giugno, il giorno dopo, e lo dico perché uno degli ultimi film passati a Cannes è stato proprio il film di Fatih Akin, ebbene, potete rivedervi Ai confini del paradiso di Fatih Akin del 2006. Su Rai Movie alle 3 di notte. Sì, a Brema il vecchio turco Ali decide di vivere con una prostituta che fa il mestiere per aiutare la figlia in Istanbul con l'università, e lui ha anche un figlio, ed è proprio questo figlio che, quando il vecchio uccide la compagna in un litigio, parte per la Turchia in cerca della figlia di lei. Comincia così un viaggio lungo un'Europa divisa cultura dopo cultura, con una sorta di ragnatela di percorso in cui si intersecano veramente tantissimi temi, tantissime domande, tantissimi motivi anche sociali, nella logica di accumulo emotivo di Fatih Akin, regista il cui ultimo film è stato premiato per la migliore interpretazione femminile a Cannes, e che fa sempre del cinema civile insieme del melò, senza andare mai troppo per il sottile, ma creando sentimenti ad hoc molto molto forti. E allora ricordiamo ancora Fatih Akin con Ai confini del paradiso su Rai Movie alle 3 di notte di martedì 6 giugno. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E sulle note della nostra sigla non resta che il tempo di ricordarvi il game con cui abbiamo giocato oggi. Abbiamo detto che eravamo filologici, e infatti si trattava della serie originale di Wonder Woman. Due splendidi cofanetti con tutti gli episodi della serie vi aspettano se avete indovinato per primi. Settimana prossima i vincitori. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.